America 24 di Mario Platero. Buongiorno, buon Natale a tutti, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, we wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, buon Natale a tutti. Questa canzone, devo dire, la sentiamo fino all'ossessione, come un po' tutte le grandi canzoni natalizie, ma questa in particolare la si sente per le strade. Pensate, l'altro giorno c'erano due signori anzianotti davanti a un baracchino della Salvation Army, tutti così vestiti molto bene, che facevano un balletto su questa canzone, giravano su se stessi, avevano queste campanelline per cercare di invogliare la gente, come dire, a fare delle donazioni per i più poveri. Ecco, una cosa davvero straordinaria è che qui il Natale a New York lo si vive molto per strada e lo si sente, lo si vede nelle vetrine, nello straordinario albero di Natale al Rockefeller Center. Oggi però non vorrei farvi un discorso generale su questo Natale, ma vorrei raccontarvi una storia, natalizia, una storia tra l'altro che ci riguarda, la storia di Giovanni Paolo Facchinetti. Chi mi segue conoscerà la dinamica di questa storia, la riassumo rapidamente. Qualche anno fa ricevo una lettera di Giovanni Paolo Facchinetti che mi dice che lui è un camionista di Bergamo, ma vuole trasferirsi in America per dare un futuro migliore ai suoi figli. Ecco, da qui che è nata poi l'idea del solo andata. Ma quanti di noi cercano di prendere un biglietto di solo andata per venire in America e cercare fortuna? Ho seguito poi le vicende di Facchinetti negli anni, il quale prima vuole aprire una pizzeria, poi non trova il visto, poi finalmente riesce ad arrivare in Canada. Il sogno si avvera. E lì di nuovo c'è stato un po' di dibattito, mi ricordo, e che ne parlai anche con Giuseppe Crugiani, chiedendogli qual era il suo parere di questo camionista che cerca fortuna in America, vabbè, in questo caso in Canada, ma comunque nel Nord America. Ecco, sentiamo cosa mi ha risposto Giuseppe Crugiani, il conduttore della Zanzara. L'America non è un posto dove ci sono poi scorciatoie, dove ci sono paracadute, dove c'è sempre qualcuno che ti protegge. Insomma, o riesci o non riesci, non ci sono poi tutte quelle tutele magari che ci sono in Italia, non c'è il sindacato forte come in Italia, è un mercato molto più aperto e dunque è facile la salita, ma è facile anche la caduta. Ecco, Giuseppe, come dire, paventava un rischio al quale però ha risposto subito prontamente Facchinetti dicendoci questo, e queste sono sempre dichiarazioni di qualche anno fa, sentiamo. Sì, la moglie, anche i bambini sono stati contenti, anche perché quando sono arrivati poi ha cominciato a nevicare anche la notte di Natale, e è venuta giù tanta di quella neve e abbiamo fatto un bel Natale, comunque sono stati felici. Poi vedono anche loro strade larghe, macchine grandi, camion grandi, tutto grande. E la moglie di Facchinetti cosa raccontava anche lei di questa avventura americana? Sentiamola. Per me è un sogno queste cose qua, perché non mi aspettavo che mio marito faceva queste cose qua, pensava anche al futuro per i bambini. Così siamo venuti qua in Canada, siamo qua in Canada, in Windsor. Per celebrare questo Natale in famiglia dall'altra parte dell'Atlantico avevo parlato anche con la figlioletta di Facchinetti, sentiamo anche lei. E sei contenta? Sì. Senti, ma tu alla fine sei arrivata in Canada, tuo papà ha mantenuto le promesse, ma dici una cosa, com'è essere in questa Windsor dove c'è tantissima neve? È uguale la neve di Windsor e quella di Bergamo o ce n'è di più? Ce n'è molta di più e Windsor mi piace tanto. Ecco, questo quadro idilliaco, lo avete sentito da queste dichiarazioni entusiaste, cariche di vita, di ottimismo, questo quadro idilliaco purtroppo si è infranto, perché qualche tempo fa ricevo una lettera con un messaggio da parte di Facchinetti che era un po' un presentimento. Mi dice, ecco, da parte mia invece devo dirle una cosa che non avrei mai pensato mi accadesse. Si sta sfasciando la mia famiglia, forse per dei miei errori commessi in Italia o qui in Canada. E come diceva qualcuno nella sua trasmissione, in America puoi volare molto in alto o cadere in terra e farti molto male, e così è successo a me. Questo è il prezzo che dovrò pagare. Dunque Facchinetti dà una seconda risposta, questa più realistica e molto più recente, ai commenti di Giuseppe Crugiani. Dopodiché qualche giorno fa un'altra lettera. Grazie per il suo conforto, mi scrive Facchinetti, ma la mia vita è sempre stata incentrata sugli altri. Se gli altri erano felici per quel che facevo per loro, anch'io ero contento. Ma quando ricevi una telefonata di tua figlia dodicenne che ti dice «Papà, non cercarci più, non impicciarti più di noi, e magari è la madre che le ha detto di dirmelo, ho capito che la mia vita non ha più un senso di esistere. Ho lavorato duro, neve, ghiaccio, freddo a meno 40 gradi, 1100 chilometri al giorno, e tutto questo per niente e per nessuno. È stata tutta colpa mia. Dovevamo restare in Italia. Ora sono molto depresso. Non so più cosa fare della mia vita, so solo che in Canada mi è restato un brutto ricordo e non ci voglio più tornare. Ma negli States, dice, ci andrei a lavorare e a vivere, chissà, ormai non so più cosa farò. E aggiunge, coi figli che non parlano più con me e col mio ritorno in Italia, perché ho mia madre in ospedale, malata di Parkinson, mi dovevo occupare di lei, non ho più voglia di vivere. Ecco, una storia che potrebbe non sembrare propriamente, come dire, natalizia, ma le storie natalizie sono anche queste, sono le storie di persone che nel giorno di Natale si trovano in difficoltà. E dunque io oggi ho voluto tenere compagnia a Giovanni Paolo Facchinetti, e qui con noi ai microfoni di America 24. Spero che la compagnia, cari ascoltatori, potrete tenergliela anche voi, magari scrivendogli su Facebook, visto che per lui certamente questo non è un Natale ideale. Buongiorno Facchinetti, mi sente? Sì, buongiorno Mario Platero, la sento. Cos'è successo in questi 3 anni? È successo perché lavorando in questa ditta, appunto, avevo fatto $100,000 in un anno, e poi la moglie giustamente voleva comprare questo, quello, le scarpe, i vestiti, andare di qui, andare di là, sempre al centro commerciale, e poi quando abbiamo fatto il compleanno del bambino, lì è arrivata che abbiamo litigato, appunto, perché diceva ma lavoro anche io, guadagno anche io, i soldi sono i miei. Io ho detto, ho capito, ma lavoro anche io, i miei soldi sono di tutta la famiglia, come dovrebbero essere anche i tuoi, ho detto. E lì abbiamo litigato, ecco perché poi ci siamo incrinati tra me e lei. Ecco perché questa festa era molto cara, era molto più cara. Quanto costava questa festa? Questa festa all'inizio doveva costare $200, invece poi alla fine abbiamo dovuto pagare $750 più la torta, più questo, più quell'altro. Come minimo avremmo speso più di $1,000, e secondo me mi sembrava sbagliato spendere più di $1,000 per un compleanno. Io anzi avrei portato mio figlio a Disneyland vicino a Los Angeles piuttosto che fare quella festa lì, però saremmo andati tutti e quattro, avremmo speso di più ma ci saremmo divertiti di più. Ecco, lei a un certo punto però anche era lontano da casa, perché lei arriva, come avevamo raccontato in passato, a Windsor, poi si muove ad Edmonton in Alberta, sempre con la stessa società con cui guadagnava bene, poi però mi ha raccontato che questi a un certo punto l'hanno licenziata, e quindi lei, come diceva Alpeggiani, a un certo punto si è trovato senza questa rete protettiva, ha trovato un lavoro andando addirittura a Vancouver, che è dall'altra parte del continente, quindi è sull'Atlantico, e ha lavorato lì come camionista con un indiano, mi raccontava, con una società molto più piccolo. Ecco, che viaggi faceva? Perché questo sicuramente la lontananza immagino abbia contribuito a creare tensioni con la famiglia, che la vedeva molto meno. L'azienda non mi ha più rinnovato il contratto perché appunto il governo non dava più permessi di lavoro per gli autisti, e ho trovato questa azienda lì a Surrey vicino a Vancouver, e caricavamo Vancouver e poi esportavamo tutto negli Stati Uniti, e ho viaggiato nelle strade dell'Oregon, stato di Washington, California, Nevada, Utah, North Dakota, South Dakota, Montana. Ho girato tutto il West degli Stati Uniti. Sono stato un mese e mezzo sul camion senza mai venire a casa. Sulle strade americane non c'era giorno che non piangevo veramente. Ero disperato e pensavo anche di farla finita perché non ce la facevo più, perché non vedevo dove, che senso aveva la mia vita e lavorare per chi e per che cosa, ecco. Ecco, poi però è riuscito a resistere, poi a un certo punto lei è dovuto tornare in Italia perché sua madre non stava bene, e mi ha raccontato anche che a un certo punto lei voleva parlare con sua figlia al telefono, e sua figlia cosa le ha detto? Che non voleva più parlare con lei? Sì, mi disse al telefono, non ci chiamare più, non cercarci più, non ti deve interessare più di quello che facciamo noi. Ma io ho detto, ma siete i miei bambini. E poi lei giustamente mi ha richiamato, mi ha detto, guarda papà, ti chiedo scusa di quello che ti ho detto, infatti quello che ho pensato io, che queste parole qua gli sono state messe in bocca da mia moglie, e da lì non sono più riuscito a parlare. Poi ho dovuto trovare il sistema per parlarci, e tramite il prete lì della chiesa italiana ho saputo in che scuola andavano, ho trovato il numero di telefono, ho chiamato il principal e poi me li sono fatti passare, e quel giorno che li ho sentiti la bambina piangeva, e poi ho sentito anche il bambino. Lei cercherà di chiamarli oggi almeno per Natale? Sicuramente che li chiamerò, sicuramente, perché giustamente oggi che è il giorno di Natale, e poi io sono a casa anche da solo, sono le uniche due persone della mia nella mia vita più importanti che ci sono, dunque sicuramente le chiamerò oggi che è Natale. Ecco, lei continua a voler andare negli Stati Uniti, non più il Canada, ma gli Stati Uniti sì, mi diceva che ha trovato una sponda, se non sbaglio. Sì, perché sono sempre stato in contatto con questo signore qui che assume in questa ditta qua, diretto di Human Resource della Crank Transportation in Arizona, e poi ho avuto un contatto di questa signora che abita a Columbus, in Ohio, e tra l'altro ha origini italiane, è un'italo-americana, e niente, mi ha contattato appunto su Facebook chiedendomi l'amicizia e parlando così del più del meno, le farebbe piacere conoscermi e magari avere, come dire, una storia, ecco, così potrei, diciamo così, coronare il mio sogno che ho sempre voluto. Mi farebbe molto piacere che vada bene questa storia con questa signora qua, per il fatto che comunque potrei diventare chissà un giorno americano, coronare il mio sogno che ho sempre sognato e essere più vicino ai miei figli per poterli magari un giorno farli diventare americani e farli studiare in qualche università americana, e poi la mia vita, chi lo sa, finirà negli Stati Uniti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me sempre il microfono di America 24, Giovanni Paolo Facchinetti. Che canzone vuole dedicare ai suoi figli lontani nel giorno di Natale? La scelga lei. Jingle Bell Rock. Let's rock, Facchinetti, e speriamo che l'anno prossimo le porti più fortuna. Jingle Bell Rock. Platero vi saluta, vi auguro buon Natale e vi auguro buon Natale con un messaggio, perché la storia di Giovanni Paolo Facchinetti credo sia una storia che ci ricordi che non tutti in una giornata come questa possano viverla in modo spensierato, e dunque il Natale è anche un messaggio di solidarietà. Vi lascio con questa idea, con questo messaggio, pensiamo agli altri, e vi do appuntamento a lunedì.